Capitolo quarto. La visione economica femminile di Rosa Luxemburg, 1912. Blocchi economici mondiali est e ovest contrapposti? La grande menzogna smascherata da Rosa Luxemburg. Quando scrissi questo libro nel 2007, il quarto capitolo lo dedicai a Francesco Bacone e alla sua Nuova Atlantide. Ma allora non ero ancora consapevole di quanto l'indottrinamento patriarcale influisca sulla nostra conoscenza e non mi resi conto dell'aspetto sinistro dell'opera di Bacone e di quale congregazione ne stia ora traendo spunto per sostenere una politica mondiale totalmente aberrante che chiunque legga il suo testo integrale individuerà immediatamente. Oggi, nel 2019, il capitolo su Bacone non potrei più leggerlo, né considerarlo collegato alla mia visione economica. Quindi lo sostituisco con un capitolo dedicato a Rosa Luxemburg, la prima economista professionista donna che 10 anni fa, nonostante la mia laurea in economia, non conoscevo, poiché i programmi scolastici sono pensati e mantenuti in essere per programmare le menti alla visione patriarcale. Come saprete, si intende con l'espressione blocco economico quella porzione di pianeta che pratica una certa politica economica. Nel nostro pianeta esistono due macroblocchi, quello occidentale cosiddetto basato sul capitalismo e quello cosiddetto orientale basato sul comunismo. Questa apparente distinzione è una menzogna, poiché in realtà entrambi i sistemi economici rispondono a un unico padrone, il denaro. La chiara visione riguardo a questa menzogna mi è appunto scaturita dall'analisi dell'opera di Rosa Luxemburg. Sebbene ella sia conosciuta soprattutto come rivoluzionaria e attivista politica della socialdemocrazia tedesca, Rosa Luxemburg è stata in realtà una brillante economista. Nel suo studio, l'accumulazione del capitale analizza con una sorprendente lucidità la situazione economica mondiale del tempo in cui visse, la quale tristemente è rimasta tale anche ai nostri giorni. Naturalmente, come dicevo, il testo di economia politica di questa grande studiosa, filosofa e politica polacca naturalizzata tedesca non è minimamente compreso negli odierni programmi universitari delle facoltà economiche. Ciò nonostante meriti di essere studiato per la sua accurata disamina del capitalismo e del suo alleato più prezioso, il militarismo, come forma economica distruttrice di tutto ciò che è naturale e basata sullo sfruttamento senza rinnovo delle risorse materiali e produttive per alimentare se stesso, trasformando il mondo intero in un unico grande mercato consumistico. Rosa Luxemburg nacque in Polonia alla fine dell'Ottocento e partecipò ad attività rivoluzionarie fin da studentessa. La sua visione e la sua azione politica erano di matrice socialdemocratica, ma Rosa si schierò dichiaratamente contro la violenza e la guerra. La sua idea di comunismo era assimilabile a quella di comunità contadine autosufficienti e pacifiche, più che allo scempio operato dalle rivoluzioni armate in Russia e Cina. A 18 anni dovette fuggire dalla polizia polacca e si rifugiò prima in Svizzera e poi in Germania, dove divenne docente di economia politica, nonché una dei capi del movimento socialdemocratico tedesco. Rosa Luxemburg presagì i danni del consumismo decenni prima che si coniasse persino il termine. Infatti sostiene che il capitalismo, per potersi espandere sempre più, necessita di mercati in cui vendere i suoi beni e che proprio questo causerà la sua fine. Quando un giorno tutti i mercati saranno saturi e la terra intera diventerà un'enorme discarica di beni dismessi, il capitalismo collasserà, poiché nessuno più comprerà beni, ma a quel punto sarà tardi e il pianeta andrà in pezzi. Ma all'epoca in cui Rosa scrive, questa situazione non era ancora un'emergenza come lo è oggi. La sua teoria, sebbene secondo i critici sia formalmente scorretta, si basa totalmente su folgoranti intuizioni femminili riconducibili al mero buonsenso. Al tempo La sua analisi della situazione indiana e della devastazione compiuta ad opera dei capitalisti inglesi lascia davvero stupite le menti che ne colgano la lucidità, l'esattezza e la lungimiranza. Dopo aver spezzato le fasce produttive delle antiche comunità sociali degli Hindù, scrive, e aver alimentato un'usura per cui un interesse del 15% è normale, gli inglesi mettono il contadino indiano rovinato e immiserito sotto la tutela del fisco e dei suoi funzionari, cioè sotto la protezione delle sue dirette sanguisughe. Attraverso l'imposizione fiscale, spiega, lo scopo del capitalismo inglese era la presa di possesso violenta della terra. Quando i contadini non potevano pagare le tasse, i capitalisti inglesi li espropriavano, divenendo padroni della terra. Lo stesso sistema fu adottato dai francesi in Algeria e nello stesso modo funziona il colonialismo in tutto il mondo. L'economia domestica delle tribù arabo-kabile, scrive nel capitolo 27 dell'Accumulazione del capitale, intitolato La lotta contro l'economia naturale, era diretta dalla donna più anziana. La grande tribù famiglia Kabila, algerina, era proprietaria non solo del suolo, ma anche di tutti gli attrezzi e i mezzi necessari all'esercizio del mestiere di tutti i suoi membri. Ogni membro possedeva un solo abito, ma tutte le vesti preziose e i gioielli erano proprietà indivisa del clan e potevano essere usati dai singoli col consenso di tutti. I pasti si prendevano a una grande tavola comune, le donne cucinavano a turno, mentre le anziane provvedevano alla distribuzione del cibo. I mezzi di sussistenza venivano divisi ogni mese dall'autorità preposta, secondo criteri di rigorosa uguaglianza e in base alle necessità di ognuno. Stretti vincoli di mutuo soccorso e solidarietà rendevano compatte queste comunità. L'altro aspetto dell'accumulazione del capitale, scrive, è la politica coloniale con il sistema dei prestiti internazionali. Appaiono qui apertamente, senza veli, la violenza, la frode, l'oppressione, la rapina, la guerra. E costa fatica identificare sotto questo groviglio di atti politici, di forze e di violenza le leggi ferree del processo economico. Questa analisi rivela chiaramente perché la visione di Rosa Luxemburg non sia materia di studio nelle facoltà di economia. La dimostrazione che le comunità tribali, con la loro equa suddivisione di lavoro e produzione di stampo matrifocale, garantivano il benessere di ogni membro del clan, mentre l'economia capitalistica mira all'acquisizione dei beni con la violenza e all'impoverimento della collettività a vantaggio dell'oligarchia, è esattamente l'opposto di quanto le facoltà di economia vogliono inculcare agli studenti, e cioè che l'attuale sistema economico capitalista sia il migliore possibile. La visione di Rosa Luxemburg sgretolerebbe il sistema economico e finanziario dell'elite globale. Dopo la stesura dell'Accumulazione del capitale, la sua opera più famosa, ebbe polemiche con Lenin, di cui lei non condivideva l'impostazione elitaria del partito proletario, e con Stalin, poiché si rese conto che il dittatore russo stava abbattendo la democrazia anziché allargarla. Infatti, alla fine si staccò Rosa Luxemburg dalle formazioni politiche esistenti e fondò, con intento totalmente innovatore, la Lega di Spartacus, dal nome del gladiatore romano che diede vita alla rivolta degli schiavi più famosa della storia. Profondamente pacifista, abbandonò la carriera di insegnante ed iniziò quella di attivista proprio allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. E si diede a compiere in quel periodo molte manifestazioni contro la guerra, che organizzava da se stessa, in tutti i luoghi dove c'era qualcuno disposto ad organizzarle un comizio e ad ascoltarlo, fino a che non venne arrestata. Come ho detto, la sua posizione non violenta la pose in opposizione non solo al capitalismo militarista occidentale, ma anche alla rivoluzione socialista bolscevica russa e allo stesso Lenin, che la accusò di aver trasformato in dittatura un movimento spontaneo popolare. Fu arrestata diverse volte e continuò ininterrottamente la sua attività di divulgatrice e ideologa, scrivendo anche dal carcere. Il suo ultimo arresto durò per quasi tutta la Prima Guerra Mondiale. fu liberata alla fine della guerra e assassinata a sangue freddo pochi mesi dopo dalla polizia tedesca. Il suo corpo fu ritrovato in un canale alcuni mesi dopo. Aveva 48 anni. Negli ultimi capitoli del suo L'accumulazione del capitale, scritto tra il 1906 e il 1912, 7 anni prima di essere assassinata, dimostra ampiamente che il capitalismo, per espandersi, deve prima di tutto sopprimere l'economia naturale, quella dei villaggi e delle comunità cooperative, con economia condivisa, composte da contadini e artigiani completamente autosufficienti. Sopprimendole si impossessa della terra e la capitalizza, costringendo i contadini ad affittare ciò che prima era loro di diritto, la terra, appunto. E in questo modo fa sì che le comunità familiari si indebitino e siano costrette, per sopravvivere, a entrare nel regime mercantile, ovvero l'altra faccia del capitalismo stesso. A questo punto io, Devana, non posso fare a meno di chiedermi come mai il comunismo mondiale, quello della rivoluzione russa e cinese, invece di sostenere l'economia contadina come baluardo contro la diffusione del capitalismo, abbia al contrario collaborato proprio alla sua distruzione. Il regime comunista del blocco economico orientale ha deportato milioni di contadini nelle città baraccopoli, col pretesto di voler sopprimere il retaggio imperiale della servitù della gleba e costringendo i contadini stessi a lavorare nelle fabbriche, uccidendo l'economia naturale e contribuendo allo sviluppo proprio di quell'industria capitalistica che fingeva di voler combattere. Quindi i due blocchi economici mondiali, capitalismo e comunismo, sono in realtà due espressioni della stessa volontà economica di appropriazione delle risorse e di impoverimento dell'umanità e rispondono allo stesso padrone. L'idea che est e ovest siano due blocchi contrapposti è una creazione artificiale. Profetico fu Orwell, creatore del Grande Fratello, nel suo romanzo 1984, affinché gli esseri umani siano perennemente in lotta gli uni contro gli altri. Divide et impera, dice l'antico detto romano, separa e domina. I due finti blocchi economici garantiscono la sussistenza della dualità, del conflitto, della guerra, ovvero la frequenza su cui trasmette quella che chiamiamo realtà ordinaria, alimentata dai programmi scolastici e universitari, incluse le facoltà di economia, dove l'unica economia politica studiata è quella capitalistica nei suoi diversi aspetti. Il liberismo, ovvero la libera circolazione internazionale delle merci, e il protezionismo, che consiste nella protezione della propria economia nazionale attraverso l'imposizione di alti dazi doganali alle merci importate. Potete ascoltare alcuni capitoli del trattato di Rosa Luxemburg e l'accumulazione del capitale dalla mia stessa voce su questo canale YouTube.